Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'Avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Controllo, archeologia informatica. Buonasera a tutti amici di Runtime Radio. Molti si staranno chiedendo perché sul feed diretta di archeologia videoludica c'è la sigla di archeologia informatica. Semplicemente perché questo è un crossover che stiamo facendo tra le due trasmissioni, perché questa sera si parla sì di videogiochi, ma si parla anche di codice, di cose insomma che avete già capito leggendo sia il titolo che la descrizione. A farmi compagnia questa sera ovviamente il solito Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, eccomi qua. Sì. Scusate la voce, c'è un po' di... Mi raccomando, che tu stai in zone pericolose, non mi piace quando fai questa tosse così. E ovviamente, però è comunque connesso, comunque collegato all'argomento della serata, Umberto Pariside, Beceri Videoludici. Buonasera ragazzi, grazie. Sei carico? Sei pronto? Carichissimo. Considerate sempre, andate a cercare i Beceri Videoludici su Spreaker, lo cercate anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella, perché Umberto produce cose in quantità ma soprattutto di qualità, che insomma è abbastanza un caso raro ultimamente. Quindi, e in più grazie. Poi dopo, prima di dirlo alla fine della trasmissione perché magari è troppo tardi, ricordiamo anche che è in uscita la mia nuova avventura grafica Chronicle of Ismaut Mountains of Madness, che è una serie che parte proprio ispirandosi alla buona Lucas. Eh sì, soprattutto il primo. Particolare. Ok, saluta un attimo la gente in chat, quindi Zio Mischi, Roberto Tomaiolo, i Beceri Videoludici, che probabilmente sei tu Umberto, sì. Emanuele Gori, All Games Italia, quindi il nostro amico Sambu, il cuciniere, quindi Gianluca Sansò, Marble Madness, che insomma alla fine insomma ha anche ottenuto un bel premio da noi, però anche se poi faceva schifo, ma dai, avete capito, e Rob Nomad, che fa parte sempre penso della tua cerchia, se non erro, insomma NG Plus, giusto, hai ragione, vabbè, io faccio un po' di confusione. Allora, per far capire di che cosa parliamo oggi, c'è una piccola intro. Mamma mia, che caciara! Penso che gli autori della colonna sonora di Monkey Island si stanno ribaltando nella tomba. Però è che era carino introdurre una cosa un po' diversa dal solito, perché insomma c'è questo tizio che fa le colonne sonore dei videogiochi e le prende e le porta in chiave metal. Insomma, non solo dei videogiochi, penso anche di altro genere. Però insomma è carino, cercatelo, Monkey Island meets metal. Non mi ricordo come si chiama il canale, però insomma è abbastanza divertente. Prima di iniziare con la parte seria faccio un piccolo disclaimer, come ho detto ai miei colleghi qui, siccome che da mie dichiarazioni che si sono susseguite negli anni o nei mesi, che sono anche postume da quella puntata di Calavera Caffè dove facemmo questa puntata che si intitolava Monkey Island rotto il cazzo, molti si sono fatti l'idea che a me Monkey Island mi abbia un po' stufato, diciamo così, che io sia una sorta di detrattore insomma del gioco. In realtà non è assolutamente così, voglio precisare che è uno dei giochi, a parte che io penso che le avventure grafiche, in particolare Monkey Island, siano state il mio primo vero grande amore dal punto di vista videoludico, non primo, ma sicuramente un grande amore dal punto di vista videoludico. La cosa che io contesto è il fatto che purtroppo un certo tipo di ambiente dal punto di vista creativo, e non soltanto dal punto di vista creativo, è rimasto a Monkey Island. Cioè noi ancora oggi a 30 anni di distanza ci troviamo a avventure grafiche, giochi non avventure grafiche, cortometraggi o cose, tutti che prendono praticamente spunto da tutta una serie di elementi citatori di Monkey Island. Siccome questa è una cosa che io ho già incontrato in passato nel cinema indipendente, quando realizzavamo e producevamo cortometraggi, e vedevamo tutti questi ragazzetti che uscivano dalla scuola di cinema che facevano i cortometraggi alla Tarantino, perché tutti dovevano essere Tarantino, alla fine finisce che Tarantino te va sui coglioni, perché è chiaro, no? Cioè nel senso, tu vedi la gente che non è capace di essere creativa da quel punto di vista, e questa cosa a me mi ha sempre scocciato. Considerando anche che dal terzo Monkey Island in poi l'aspetto grafico di Monkey Island ha assunto, diciamo, quella connotazione cartunesca che io ho sempre detestato. E per me, alla fine, cioè nel senso, Guybrush non è quella faccia da imbecille che vedi nel terzo, col capello in quella maniera là, ma rimane sempre quell'immagine, forse anche poco definita, in pixel art dei primi due, che comunque, voglio dire, dentro la nostra immaginazione era sicuramente diverso. Detto questo, spero di non tornarci più su questo argomento, perché veramente è una cosa, perché la gente mi ci scrive, voi pensate che sia una cazzata, ma la gente mi ci scrive, quindi bene. Farai la nuova puntata invece di Monkey Island, ci ha rotto il cazzo, farai quelli che dicono che sono un detrattore di Monkey Island hanno rotto il cazzo, hanno rotto anche loro. Sì, poi non entro in cose che non voglio entrare, su polemiche che ho già fatto su persone che hanno prodotto cose che non vorrei, perché sennò poi dopo alla fine stiamo sempre lì. Bene Carlo, introduciamo il tema della puntata. Perché perché il titolo è Il codice della scimmia? Allora, grazie alla scusa, diciamo, di introdurre il discorso di Monkey Island e del fatto che sia stato fatto questo evento in cui Ron Gilbert ha commentato il codice, in realtà tutto questo mi dà l'occasione di parlare di qualcosa di più, di molto importante, che sta alla base di tutto questo, perché in realtà il codice di Monkey Island è, diciamo, il kick-off di un progetto molto importante che è stato prodotto dalla Video Game History Foundation. La Video Game History Foundation è una fondazione che da anni si batte per la preservazione di quella che è la storia del videogioco, argomento a me molto caro, come sapete, come sa Simone, come già detto numerose volte. E quest'anno, proprio nel 2020, la Video Game History Foundation ha lanciato un'iniziativa che ha avuto un parecchio riscontro a livello internazionale nell'ambito della ricerca del videogioco, che è la Video Game Source Project. Che cos'è la Video Game Source Project? Praticamente la Video Game History Foundation dice: facciamo in modo che almeno i capisaldi della storia degli informatici, del videogioco, ma se non i capisaldi, almeno l'obiettivo è quanto più possibile, quindi anche tutti, diciamo, i videogiochi che hanno fatto la storia e non, vengano preservati anche a livello di codice sorgente, quindi non di gioco che noi abbiamo comprato, i dischetti e i floppy che noi abbiamo trovato nei negozi e che sono stati acquistati, ma proprio tutto quello che è il materiale che i produttori, i progettisti del videogioco hanno prodotto per poterlo fare. E questo deve essere preservato e lasciato a disposizione dei ricercatori futuri che studieranno la storia del videogioco. Questo è un argomento molto importante, anche perché ne abbiamo parlato anche in passato, forse Simone si ricorderà, quando abbiamo fatto una puntata in proposito, anche per le produzioni che, diciamo, quasi contemporanee o contemporanee, dove il media fisico è andato a scomparire. Avevo fatto il classico esempio: se io oggi volessi giocare o rigiocare o vedere com'era la prima versione di Fortnite, non posso. O Minecraft. Perché o Minecraft stesso, esatto, per citarne due di famosi e importanti. E non posso perché non esiste un media fisico che mi dà la possibilità di avere quel prodotto, perché questo prodotto è nato e cresciuto in digitale online, esiste su dei server, quindi l'unico modo per poter preservare questa storia è preservare quello che c'è di codice sorgente, che è rimasto di codice sorgente, di progetti di realizzazione e di tutto quello che si è usato per produrre questo titolo, questo videogioco. Quindi la Video Game History Foundation fa partire questo progetto che io ritengo importantissimo, e per farlo partire sceglie Monkey Island. Oltretutto fanno un evento con Ron Gilbert in diretta a ticket, cioè questo evento è stato un evento a pagamento di presentazione, quello di cui discuteremo stasera, e su Eventbrite ha incassato $13,000 di biglietti, cioè praticamente alle stesse parole di Frank Cifaldi della Video Game History Foundation, loro si aspettavano un decimo, cioè si aspettavano di raccogliere $1,000-$1,300, sono arrivati a $13,000, che questo è veramente, che vanno alla fondazione, immagino, che vanno alla Video Game History Foundation, fondazione della Video Game History Foundation. Quindi devo dire che anche a me ha reso felice questa cosa, questa occasione. Io purtroppo non ho partecipato perché in quei giorni lì, quando dovevano farlo, io ero oberato di lavoro, quindi non avrei potuto neanche... Ah, io pensavo perché eri tirchio. Non ho capito, scusa. No, io pensavo che non hai partecipato perché eri tirchio, invece no, non potevi. No, non potevo. E me lo sono comunque goduto dopo, quando è stato reso disponibile a tutti, perché dopo che è passato un tot di tempo che era rimasto, diciamo, che era rimasto attivo solamente per quelli che hanno pagato il biglietto, poi è stato finalmente reso pubblico. Quindi stasera discuteremo di questo evento che c'è stato, l'introduzione spero che sia stata abbastanza chiara per tutti, di che cosa è stato mostrato questo evento. Praticamente ha mostrato al pubblico per la prima volta il vero codice sorgente in SCUM, quindi lo script SCUM che è stato utilizzato da Ron Gilbert per creare Monkey Island, e tutti i tool che sono stati utilizzati, i tool della Lucas che erano stati prodotti in quel periodo per poter generare le avventure come le precedenti, sì, da Maniac Mansion, passando da tutte quelle che ci sono state fino ad arrivare a questo Monkey Island e poi le future. E non solo, durante diciamo l'analisi di questo sorgente, di questo materiale, si sono scoperte un sacco di cose che non si conoscevano di cutscene che erano state non incluse poi nella versione finale, piuttosto che immaginavo che fosse così, infatti. Quindi tante cose. Io faccio un attimo una piccola digressione. Intanto il fatto che tu hai detto, insomma, dell'incasso, no? E questo dimostra ancora oggi, Umberto, quanto sto gioco uno può provare a buttarlo giù dalla torre, ma alla fine ritorna sempre su, no? Cioè, nel senso, ha lasciato storicamente proprio un segno indelebile. E poi quanto sia importante per uno sviluppatore, quindi per un creatore, per una persona che comunque vuole anche approfondire questo tipo di mestiere, andare a scartabellare i trucchi segreti magari che possono stare dietro un gioco oggi consideriamo di successo. Poi vabbè, nel senso, in realtà allora abbiamo scoperto che tutto questo successo non ce l'ha avuto, insomma. Umberto, dal punto di vista commerciale no. Però vabbè, dopo magari ne parleremo di questo. Sì, assolutamente, è stato molto simpatico a vedere il video di Ron Gilbert, che non sono ancora riuscito a vedere tutto, ma la parte del codice è veramente carina e comunque penso abbastanza geniale per l'epoca in cui era stato concepito, e anche, voglio dire, dopo il linguaggio di scripting sovrastante, insomma, è una cosa che praticamente si è utilizzata ovunque, però insomma lo vedevo snello, cioè vedevo il modo in cui inseriva il tutto, era veramente snello, facile, cioè potevano prototipare molto facilmente, ed ecco anche perché probabilmente c'è tutta anche questa roba non messa in game, prove, controprove, che se andate sul sito ci sono delle cose veramente interessanti. E no, niente, è stata una cosa molto piacevole, a parte che era una vita che avrei voluto spulciare nello scam per vedere un po' come funzionasse, quindi sono una cosa che mi ha reso molto felice, essendo uno dei miei giochi preferiti, d'altronde. Sì, che poi lo scam, cioè lo scum, poi in realtà scam, insomma, alla fine era il framework che loro avevano sviluppato per fare le loro avventure grafiche insieme poi a tutti i tool accessori, giusto, Carlo? Scusami, mi sento malissimo, deve essere successo qualcosa nella linea e ho perso l'ultima frase, mi ripeti la domanda? No, stavo dicendo che poi alla fine sto scum in realtà non era nient'altro che un framework che loro avevano sviluppato per realizzare questi giochi, no? Da quello che dovrebbe nient'altro, tra molte virgolette, ovviamente. No, no, vabbè, nient'altro. Sì, no, ecco, comunque la no, perché molti confondevano lo scum con l'interfaccia, cioè nel senso l'interfaccia con i verbi. No, no, scum era proprio l'origine del framework. E poi durante questo evento Ron Gilbert dice una cosa molto interessante, perché io per esempio avevo sempre pensato che lui avesse iniziato a sviluppare il linguaggio di scripting più che altro per l'intercompatibilità, cioè per non essere legato a una singola piattaforma. In realtà lui dice invece che l'aveva sviluppato per agilmente poter sperimentare e creare le storie facilmente anche durante lo sviluppo e cambiare idea di come si svolgeva la storia, quindi per semplificare quello che era lo sviluppo, non per renderlo intercompatibile. Diciamo che l'intercompatibilità è stata una conseguenza quasi, ma in realtà non era questo l'obiettivo per cui hanno disegnato lo SCUM. Lo SCUM l'hanno disegnato all'inizio con la prima avventura di Maniac Mansion, dove è nato, proprio perché lui voleva facilmente poter cambiare velocemente come funzionava la storia, quindi l'enigma, metterne uno, mettere un'altra stanza, provare se non andava, provare un'altra stanza, fare un altro enigma, cambiare i dialoghi, senza dover mettere mano, lui giustamente nell'intervista dice avremmo potuto programmarlo in C++, in quello che volevamo, in Assembler, ma far modifiche in quel caso sarebbe stato molto più difficoltoso. Invece progettando uno script, un sistema di scripting, mi veniva semplice cambiare velocemente le interazioni che accadevano durante la storia, quindi è stato questo il motivo per cui hanno iniziato a creare lo SCUM. Durante Thimbleweed Park, in quelle interviste che fece, disse anche che era per poterlo far utilizzare anche a chi non era addentrissimo, diciamo, al codice, che ne so, far fare delle prove, non lo so, ai disegnatori, ai designer, essendo molto semplice concettualmente, come poi è d'altronde. Assolutamente, assolutamente. Mm. Se volete posso anche entrare un attimo più nel dettaglio di quello che ha presentato, dello script. Sì, sì, ma facciamolo organicamente, cioè diamo un ordine magari alle informazioni, poi a me si viene in mente una domanda, o se la leggo dalla chat magari poi ve la inserisco, insomma. E per esempio lui ha creato quindi questo script, è molto semplice, molto facile da capire. Quello che fa vedere per esempio nel video è l'interazione del dialogo con i tre pirati di Monkey Island, no? E semplicemente è una scena che inizia con start dialogue, proprio scrive start dialogue, poi set dialogue 1, aperte le virgolette, è quello che deve dire, chiuse le virgolette, wait for message, fine. Dopodiché le azioni che avvengono per esempio all'interno dello SCUM esistono delle entità, no? Tutte le scene sono divise in rooms, cioè in stanze. Okay? Esistono gli actor, che sono l'entità personaggio, ma che non sono lo sprite del personaggio, attenzione, perché l'actor è proprio l'entità del personaggio, cioè l'actor è l'attore che poi indossa un costume che è lo sprite disegnato. Sì, sì, sì. Forte. Quindi fa vedere, infatti, in una riga di codice dove gli dicono fai indossare a Guybrush, che è l'actor, il costume di Stan. Costume Stan, fa actor Guybrush default costume Stan skin, invio, e lui praticamente in quella scena lì si trasforma, il personaggio che tu guidi diventa lo sprite di Stan e tu guidi lui, è come se Guybrush si fosse vestito da Stan. Questo gli permetteva all'entità attore di cambiare il vestito, di essere bagnato, di cambiare praticamente sprite che veniva utilizzato. Tutto questo era gestito da tutta una suite di prodotti che erano stati creati appositamente. Una cosa divertente che dice Ron Gilbert anche che a quel tempo abbiamo dovuto sviluppare tutti i tool perché non c'erano. Adesso in realtà per fare la stessa cosa noi progetteremmo lo script, ma per fare le altre cose i tool esistono già. Invece a quell'epoca non esistevano. L'unico, diciamo, tool esterno che hanno utilizzato è stato Deluxe Paint per disegnare. Infatti questo si vede anche in una scena quando carica il flam che è il prodotto per gestire le rooms, cioè le stanze, si vede che carica dei file .lbm. I file .lbm sono i file ILBM, cioè i file standard di Deluxe Paint su PC. Ecco, una cosa importante che devo chiarire, perché anch'io in passato pensavo questa cosa, poi parlando anche con altri ricercatori, mi ricordo Andrea Pacchetti in particolare mi spiegò tutta la genesi del primo Monkey. In realtà usarono Deluxe Paint sì, ma su PC e in EGA, quindi Monkey Island il primo, cioè esisteva Deluxe Paint su PC? Certo, assolutamente esistono diverse versioni di Deluxe Paint. Pensavo fosse solo un tool per Amiga. No, Electronics Games, Electronics Arts, quando sviluppò Deluxe Paint, la prima versione di Dan Silva fu su Amiga, ma poi uscì la versione di Deluxe Paint 2 su PC, poi uscì anche Deluxe Paint Animator su PC e uscì anche per Atari ST Deluxe Paint. Ebbe più successo su Amiga, ovviamente. Addirittura per FM Towns esisteva una versione di Deluxe Paint. Comunque, Deluxe Paint fu usato su PC in EGA a 16 colori, quindi tutta la grafica venne disegnata lì sopra. E a cui dà appunto il nome Brush, rimane sempre perché Brush è il modo con cui chiama Deluxe Paint i file, diciamo, di brush animate, quelli che servono per fare gli sprite. Quindi il famoso GUI Brush deriva appunto dal punto .brh, che era l'estensione per PC. Comunque, questo FLAM era il prodotto che gestiva per gestire le rooms, quindi tutta l'avventura era divisa in stanze, no? Quindi ogni stanza succedeva qualcosa nella stanza. La stanza aveva uno sfondo, aveva degli oggetti che potevano essere animati sulla stanza, aveva dei livelli, esisteva un doppio livello, una specie di layer, in modo che i personaggi potessero passare davanti o dietro a questi layer, praticamente, o degli oggetti che con i quali si poteva interagire. Poi esisteva il Bile, che era il gestore dei costumi, quindi degli sprite animati. Ogni sprite animato aveva quattro direzioni, su, giù, destra, sinistra, e l'attività relativa. Quindi io potevo disegnare uno sprite che andava su, giù, destra, sinistra, poi su, giù, destra, sinistra parlando, su, giù, destra, sinistra usando la spada, su, giù, destra, sinistra saltando e così via. Quindi aveva tutte le varie azioni collegate ai vari movimenti, e questo veniva utilizzato dal Bile, che creava appunto il costume. Quindi era un pacchetto che si chiamava costume, e c'era il costume di Guybrush, il costume di Stan, il costume del sindaco, le giacche. Se posso interromperti solo un secondo? Perché mi è venuta in mente una cosa. A parte che Maugara giustamente ci dice, sembra che Carlo stia parlando del Java 20 anni prima del Java, no? Però in realtà a me, questa è la domanda che faccio pure a Umberto, che ovviamente è più pratico di me, no? Perché per quelli come me che smanettano, e per quelli come Umberto invece che ci lavorano, alla fine questa cosa dell'actor mi fa pensare a quanto i tools che sono oggi in vigore, quindi Wintermute, Adventure Games, come si chiama, ma tanti altri, insomma, in realtà che ho un po' smanettato, in realtà poi prendono spunto proprio da, cioè, nel senso, secondo te quanto sono derivativi da tutto questo discorso qui? A chi lo stai chiedendo? A Umberto. Umberto. Guarda, oggi più o meno è questo il modo in cui gli engine in generale funzionano, nel senso che c'è una stanza, in uno più orientato agli oggetti tipo Unity e cose del genere, ci sono i vari oggetti che tu crei e distruggi, ci sono, però nello specifico io mentre guardavo lì vedevo proprio AGS che io sto utilizzando, e anche se è l'ultima volta che lo utilizzerò. Vabbè, perché ovviamente poi strumenti come quelli non sono pensati per le cose troppo in là, no? Cioè, nel senso, arrivano fino a un certo punto. No, no. No, no, in realtà ci fa, però è un po' poco duttile rispetto a quelli moderni, soprattutto nella portabilità verso altri sistemi, a differenza dello SCAM, come vedi. E quindi mentre lo guardavo, vedevo proprio, naturalmente con una grafica un po' più scarna, così vedevo proprio il funzionamento di SCAM VM e di SCAM VM. Vedevo proprio il funzionamento di Adventure Game Studio, nel senso che gli oggetti nella stanza è quello che infatti ti stavo dicendo tutto è character, lì ci sono anche gli oggetti che però alla fine sono come i character, sono solamente un oggetto diverso perché hanno delle piccole proprietà diverse, ci sono le walk behind che vanno disegnate, ci sta lo Z order degli oggetti su schermo, oppure puoi disegnare una shape, una forma che, dove decidi che il personaggio debba andare dietro lo sfondo in quel punto. E mentre guardavo il video rivedevo proprio queste cose qui. Quello che mi chiedo è, magari chi ha fatto AGS all'epoca, perché la prima versione di AGS è uscita addirittura su DOS, se non sbaglio, la prima versione, quindi è, cioè, molto secondo te vecchio. Quanto sono mutuati da sti tool tipo SCAM? È mutuato tantissimo, però ha avuto anche una bella intuizione, perché voglio dire, non è mai stato rilasciato nulla dello SCAM fino ad oggi. Ma magari c'era qualcuno che ci aveva lavorato dentro, che ne sai? Cioè. No, molto più semplice. No, perché io comunque, che... e qui ripasso la parola a Carlo, però prima dico, cioè nel senso, anche su Game Studio, cioè nel senso, io non ho provati tanti, così anche per curiosità, giusto per smanettare un po'. E sta cosa dell'entità player e sprite, che sono due cose differenziate, cioè nel senso l'entità player che tu costruisci al quale abbini poi ovviamente lo sprite. E mi ha fatto venire in mente questa cosa qua, cioè il fatto che comunque oggi a 30 anni di distanza sti tool funzionano nello stesso modo, però, fondamentalmente. Vabbè, è difficile fare, cioè voglio dire, se ci pensi forse è il modo più difficile fare di meglio, sì, esattamente, certo. Vai, e la questione è esattamente quella, cioè nel senso che non è che hanno copiato, qualcuno si è ispirato, hanno copiato eccetera, anche perché come giustamente detto è la prima volta che si vede effettivamente come erano questi tool al pubblico, ma la questione è molto molto più semplice, nel senso che se tu devi fare un gioco che fa queste cose, alla fine il modo per farlo è questo, cioè in generale è la conseguenza logica, cioè non è tanto il fatto di copiare o essere ispirati uno dall'altro, è che se devi fare una cosa si fa così, quindi sono le invenzioni convergenti, diciamo, nel senso che se uno deve pensare di realizzare un tool di sviluppo di giochi punta e clicca di questo tipo, alla fine più o meno andrà a utilizzare o a scegliere delle soluzioni che, se non sono uguali, sono molto molto simili. Diciamo che la bravura dell'epoca di Ron e degli altri era che questi tool li sviluppavano tutti loro internamente, quindi non è che dovevano pensarli in maniera completa, ed era un periodo, non è come adesso che c'è internet, l'informazione gira, cerchi, trovi, c'è tanto materiale, cioè dobbiamo metterci anche nei panni dell'epoca del 1986, certo. 87, 88, 89, quando non c'era niente, quindi la loro bravura a quell'epoca era proprio mettersi lì, pensare e realizzare queste cose quando quasi nessun altro l'aveva fatte. Nel contempo l'altro stava facendo le stesse cose anche la Sierra, poi dopo con i risultati dell'avventura erano diversi dal punto di vista dell'avventura, ma i tool alla fine erano molto molto simili. Sì, ma non lo conosco quello Sierra, non ho idea. Sì, sì, te lo posso assicurare, anche perché poi sì, tutti questi script, quello della Sierra e quello della Lucas e anche tanti altri sviluppati da altre, sono tutti interpretati dallo SCUMV. Sì, anche perché poi a quell'epoca ce n'erano tante dei case che facevano avventure grafiche, esatto. Quindi insomma... Però ciò, voglio dire, stiamo parlando dell'epoca di Maniac Mansion, no? Ciò che mi ha stupito è proprio la semplicità d'utilizzo, che non era così scontata all'epoca. Cioè, no, no, quella è un'altra cosa. Allora, la semplicità di utilizzo dei tool, dici, o dell'avventura? Proprio la semplicità d'utilizzo del tool, no? Cioè, sì. Io vedevo, no? Assolutamente vero. Quella, devo dire che ha stupito anche a me, però me l'aspetto. Tavo quasi, o comunque è una cosa che riesco a spiegare più che altro dalla bravura di Gilbert e degli altri della Lucas di creare interfacce semplici, perché dobbiamo dare merito anche a loro di aver semplificato le interfacce complesse che c'erano prima di loro anche nei giochi punta e clicca, perché alla fine sono stati loro a inventare la modalità dei verbi esplosi sullo schermo che clicchi, fai l'azione. Sì, anche perché la Sierra c'aveva il parser ancora, pur avendoci la grafica. La Sierra aveva ancora il parser classico, stile avventura testuale, anche se aveva la grafica. Come giustamente bestemmie. Bravissimo. Anche perché io molto dell'inglese che so l'ho imparato col vocabolario a giocare a King's Quest 1. Sì. Quindi me l'aspettavo, nel senso che come erano bravi a semplificare l'utilizzo di un programma, di una qualsiasi cosa, di un'interfaccia, dal punto di vista informatico è una delle cose più difficili che esistono. Assolutamente, assolutamente. Quindi è la difficoltà, quando tu sposti la difficoltà dall'utente al programma, quindi devi rendere il programma più intelligente e quindi è più difficile. Bene, andiamo avanti. In chat per ora sta arrivando un sacco di gente, però per ora non ci sono domande specifiche, quindi salutiamo tutte le persone che stanno arrivando, quindi Riccardo Bellucci, Riccardo Bucci, insomma, vabbè, vedo che un sacco di Riccardi, Lobby Frontali al 9000 e vabbè, insomma, ok, vai. L'ultimo tool che hanno fatto vedere era lo Spit, che era quello per la gestione dei font, dei caratteri, semplicemente, perché anche quelli andavano gestiti, quindi il carattere grosso. Ah, ecco, una cosa, Umberto, scusami. Umberto, sì. Sì, hai detto prima una cosa sul discorso del fatto che nel sistema che usi tu tutto, anche le cose che si muovono sono degli actor, no? Mi sembra di aver capito che hai detto una cosa del genere. Sì, e anche in questo è così. Infatti, nel video fa vedere e spiega che le nuvole nell'introduzione. Avete presente l'intro di Monkey Island? La intro è una room come tutte le altre, in cui le nuvole che si muovono dietro sono un actor, cioè uno sprite come se fosse Guy Brusho o un altro praticamente quindi a me, tutto realizzato così. A me è familiare perché funziona ancora così, cioè ancora così sto programmando il gioco, hai capito? quindi esatto. È proprio familiare. Come lo stai a programmare che esce domani? Io programmo fino al minuto prima, che ti credi? Sì, tanto sì. Oramai si compila in 2 minuti, non è più come una volta. Ci credo. Non è più come quando hai compilato il gioco e te crashava l'applicazione, insomma, tipo. No, cioè, so che mi ricordo che ci avevi avuto un problema col compilatore, che poi dopo hai risolto, no? C'è stato un periodo in cui ti ho sentito di delle cose indegne verso la compilazione. No, io poi non oso immaginare quanto ci mettessero a compilare all'epoca, doveva essere un... guarda che alla fine, allora, lì ha fatto vedere in emulazione sotto DOSBox, però ci messo pare che l'aveva accelerato. Sì, no? sì, ci ha messo un attimo, però non erano tempi biblici, a compilare ci avrà messo, non so, mezz'ora, un'ora massimo, non di più, quindi comunque molto... molto veloce anche all'epoca, ecco, su quelle... ottimo per fare tutto il gioco. E comunque i tool quindi si chiamavano Flam per gestire le rooms, Bile per il costume, l'editor dei costumi, e Spit per i font. Ecco, non li traduco, li traducete voi così vi divertite. Vabbè, perché li dobbiamo sì, certo, ok, sì, bene. Ovviamente, perché erano molto goliardici all'interno della... Beh sì, questa è una delle cose che è sempre uscita fuori, no? C'è questo aspetto assolutamente. Perché si parla tanto della Muse, ci chiede Gori. Perché è stata la prima volta in cui la musica si adattava alla situazione, cioè in realtà non è che cambiava la musica, cambiavano le tonalità, no? Il tono, la... No, vabbè, cambiavano proprio gli strumenti, se uno strumento sopperiva un altro e poi gradualmente passavano un altro tema. Cioè, era interessante come si evolveva la musica con l'iMusic. Sì, sì, era fighissimo, era una bella esperienza. Anche se su Amiga forse non funzionava sta cosa, no? Non mi ricordo. No, però. Era rifatto, era tutto rifatto, perché la versione Amiga fu sviluppata da una software house inglese. Praticamente fecero la conversione del prodotto fatto dalla Lucas negli Stati Uniti, esattamente della versione VGA, perché Monkey Island uscì in EGA e pochissimi mesi dopo uscì subito la versione in VGA, quindi con la grafica a 256 colori, e Monkey Island 2 fu sviluppato direttamente a 256 colori. Che poi Monkey Island 2 utilizzava gli scan, la grafica della VGA ridotta a 32 colori. No, dico, il 2 tra l'altro mi ricordo che i fondali erano scannerizzati, infatti su Amiga 500 il risultato era un po' anche male. Allora, quello che diceva Ron Gilbert è una cosa che gli hanno chiesto durante l'intervista, anche nell'1 erano scannerizzati, cioè erano disegnati a mano e scannerizzati, solo che nell'1 lo notavi di meno perché la scansione veniva ridotta a 16 colori e quindi il lavoro di retinatura a mano sull'oggetto, sulla versione EGA, era molto molto più pesante, e la versione VGA dell'1 fu derivata arricchendo quella 16, partendo da quella 16 colori della EGA, arricchendo la 256, quindi molto lavorata a mano. Monkey Island 2, partendo già in VGA 256 colori, i fondali scannerizzati furono ritoccati di meno. C'è Roberto Domaiolo che ci fa presente che c'è l'immagine nascosta di George Lucas dove c'è il ponte col troll. Praticamente e ci manda un link del Monkey Island Fandom Wiki. Adesso lo vado a vedere. Speriamo che non lo so tutto. Vabbè, quella proprio... della scena del ponte del troll ne parlano anche qua, ma perché semplicemente nel codice hanno trovato una scena dove non c'era, cioè un'altra versione di quella scena dove non c'era il troll e il ponte crollava, cosa che poi invece non è stato messo nella versione definitiva. Ok, comunque dai, continuiamo il raccons. E niente, allora, quindi fanno vedere tutto questo sistema fantastico, ovviamente, e poi dopo passano ad analizzare tutto quello che hanno trovato dentro, tutto quello che è saltato fuori analizzando il codice sorgente, e quindi tutte le cose che hanno trovato che non erano presenti nella versione definitiva, sono veramente tante, tante, tante. Non so se Umberto le guardate, se ce n'è qualcuno che ti ha colpito, magari vuoi dirla tu. No, diciamo che la cosa che mi ha colpito di più è stato trovare, che poi non era dentro, però trovare l'altra angolazione della telecamera quando arriva in cima al faro. Quella era l'unica cosa che non hanno trovato. Sì, però sì, e anche il fatto della cucina, che prima era un solo fondale, questo pure era interessante, con una diversa angolazione, che però pare che avevano difficoltà a gestire il cuoco che tornava nella stanza, praticamente. Esatto. Forte. Quindi da una stanza sola, che era il bar con attaccata alla cucina, ne ha fatto diventare due stanze, una al bar e una alla cucina, praticamente. E qui pure li capisco, sai quante volte ho diviso le cose in due perché era complicato farle? alla fine il lavoro è quello. C'è All Games Italia che in chat scrive: bella la versione EGA, allora bella la scenografia con il tramonto all'inizio del gioco, quando nella versione VGA era già notte, cioè nel senso che visto che in EGA non c'era il blu, allora hanno fatto il tramonto, non so come, esatto. Penso che sia una cosa del genere, insomma. Comunque, cioè, ragazzi, io al di là di questo non c'entra niente, lo dico, poi dopo ritorniamo al tecnico. Cioè, comunque l'atmosfera del Mili Island secondo me è una delle cose più belle, che poi mi ricorda molto Loom, poi fondamentalmente sono due giochi che paradossalmente ho amato alla follia, quindi certo. Beh, ci sono i richiami anche a Loom con il personaggio che dice devi giocare a Loom, te lo ricordi? Sì, vabbè, come su Zack McCracken c'è il poster The Maniac Mansion dentro il tizio del negozio. Ci sono sempre citazioni all'interno. La cosa che invece mi ha colpito, cioè a parte trovare un sacco di cose che non sono finite nella versione finale, hanno trovato all'interno anche due sprite di Sam e Max, Sam & Max Hit the Road, sì, che in realtà sarebbe uscito anni dopo, cioè, sì, rispetto a, sì, però hanno trovato all'interno una lavorazione di due sprite di Sam & Max, quindi per dirti da quanto ce l'avevano in testa di farlo, che addirittura erano in formato EGA Plus. Il formato EGA Plus è il formato precedente delle avventure della Lucas, quella di Monkey Island e di Maniac Mansion, quella col pixel raddoppiato, per intenderci, cioè che in pratica la grafica non era a 320 ma era a 160 pixel come il Commodore 64, questo per risparmiare spazio in memoria e nei floppy disk per metterci più cose, e questi due sprite di Sam & Max sono appunto del formato. Ma perché Purcell era già, sì, era tra già... l'altro sono fatti in maniera bestiale, andate a vedere, ah, bellissimi. E poi ce ne sono tantissimi, hanno trovato una versione precedente dello sprite di Guybrush con vestito diverso, con gli stivali diversi, diverse prove grafiche di Elaine che era completamente diversa all'inizio, proprio non aveva i ricci, aveva i capelli lisci e proprio se guardate poi le immagini che trovate sul sito veramente sono veramente tante, hanno trovato decine e decine di variazioni che fanno vedere quanto nel lavoro creativo cambiassero idea in continuazione, vuoi perché magari una scena pensavano di farla in un modo poi la facevano in un altro per problemi tecnici, per problemi per decisioni artistiche, insomma ce ne sono veramente veramente tante, compresa il titolo iniziale con una grafica completamente diversa, con la città messa di fronte anziché di lato, con le luci della città più luminose, insomma veramente tanti lavori che fanno vedere quanto il processo creativo fosse continuo durante la produzione di un titolo. Immagino anche perché secondo me creavano anche divertendosi, anche perché poi noi al di là di tutto il metalinguaggio utilizzato poi in particolare su Monkey Island 2, diciamo che poi Monkey Island è più che una vera storia, è una situazione basata sulla comicità sketch poi, cioè, e quindi alla fine diciamo secondo me si sono proprio divertiti nel momento in cui la facevano. Intanto Wargames Italia ha messo un link sulla chat che fa vedere la comparazione della scena, quella là ovviamente della panoramica dall'ascesa fino allo scumbar, praticamente sia nella versione EGA che nella versione VGI, in effetti sulla versione EGA c'è proprio il sole giù in fondo, insomma, quindi è una cosa cartissima, esatto. non la ricordavo sta cosa, devo dire la verità. Carlo, non so se sia possibile, perché ma da questa analisi che è stata fatta ci sono elementi narrativi abbastanza particolari che sono stati tagliati o che sarebbero o che avrebbero potuto essere inseriti o cose del genere, cioè che ne è uscito fuori qualcosa del genere? Ma hanno trovato una scena tagliata intera, quasi intera, che era la Trail Room, che hanno ripristinato, c'è cioè anche il video, che pensano sia stata tagliata per questioni di spazio alla fine dei dischetti per andare, perché sennò avrebbe aumentato troppo il numero di floppy, eccetera, e quindi hanno deciso di tagliare quella scena. E poi vabbè, tantissime piccole scene che potevano andare in un modo sono state fatte in un altro, ma diciamo che in realtà, almeno secondo me, da quello che capisco, il processo lineare del racconto è rimasto più o meno quello, anche se all'inizio c'erano delle caratteristiche diverse, per esempio anche il governatore dell'isola era completamente diverso, doveva chiamarsi Governor Fett ed era uno ciccione grasso, quindi ci sono state delle variazioni che c'è anche, sul 2 però della trama, esatto, però diciamo che il plot del gioco è quello, anche perché l'ispirazione per le stesse parole di Ron Gilbert, ma non qui, anche precedenti, lui aveva scritto già tutta la storia anche dell'1 e del 2, è per questo che spesso, anche tu lo dici, è brutto parlare di Monkey Island, è meglio l'1 o meglio il 2, fanno parte di uno stesso racconto che è continuato, che è una specie di unicum. Sì, sì, per me non c'è un meglio tra uno dei due. Cioè, posso dire che effettivamente sono più legato al primo perché è stato il primo, cioè è stata la grande scoperta, no, da quel punto di vista. Sì, però in realtà fanno parte dello stesso racconto. Lui dice che c'è anche il 3 che non ha mai fatto, però questo dovrebbe svelare il segreto di Monkey Island. Vai, non so quanto questo sia marketing o sia verità. Se c'è un appello alla Disney, ridatemela che vi faccio il terzo come dovrebbe essere. Sì. Ma in realtà, in realtà lui disconosce tutto quello che è uscito dopo, cioè, anche giustamente. Sì. Cioè, ma anche giustamente, io continuo a dire anche giustamente, perché comunque io dal veramente il terzo per me. Allora, vabbè, dopo sono andati peggio. Il terzo è anche divertente, però per me il terzo c'è proprio un cambio di paradigma, proprio anche stilistico, che per me no, non ci siamo. Cioè. Ma non ha lo stesso fascino dal mio punto di vista il terzo. No. Ma sarebbe stato anche gioco, difficile, a dir il vero. Cioè, sarebbe... È un buon gioco, però. Cioè, diciamolo, è un buon gioco. Sì, no, ma io non contesto quello. Cioè, vai. Faccio una domanda io, visto che comunque... Monkey Island non è stata la prima avventura punta e clicca, non è stata l'ultima, ma spesso, e come vediamo anche dagli avvenimenti recenti, da quanto viene festeggiato, dal fatto che hanno raccolto $13,000 per questo evento, da quanto se ne parla, è quella che viene sempre più citata, più richiamata, più amata. Perché, secondo voi? Cioè, qual è il motivo? È una bella domanda, anche perché è proprio la cosa sulla quale poi io in realtà poi mi batto fortemente, no? Cioè il fatto che comunque secondo me oggi poi si è talmente mitizzata un po' sta questione Monkey Island, che molta della gente che dice ah Monkey Island a malapena avrà fatto le prime tre schermate, secondo me, questa è la mia opinione. Però è Monkey Island, tutti dicono che è bello, è Monkey Island, è come dire che è bello è Super Mario. Cioè secondo me si crea un po' sta mitizzazione e poi magari vai a capire che il 30-40% delle persone che lo fanno, secondo me, manco sanno di che stanno a parlare. Però detto questo, allora il motivo per cui ha affascinato me, posso dire, perché l'atmosfera prima di tutto, e poi perché venendo da Zack McCracken, quindi quella spartanità, diciamo, incomincia ad esserci un'evoluzione anche tra virgolette cinematografica, no? Cioè nel senso, comunque c'è la scena dei Guybrush che entra dentro la villa, che oggi viene citata in 150 milioni di avventure, compreso l'ultimo Virtuaverse che sto giocando a sto periodo, che per me era, cioè nel senso, era quasi in cartone animato, cioè da quel punto, cioè per come lo vedevo io, capito? Però ecco, il perché Monkey Island è diventato proprio un mito, non lo so. Beh, io una mezza idea ce l'ho, nel senso che probabilmente è il primo esempio di un'avventura davvero accessibile. Sì, accessibile, anche... ma in che senso esattamente accessibile? È accessibile proprio come il gioco ti parla, nel senso che io prima di quello ricordo che presi Indiana Jones 3 and The Last Crusade, che è un grandissimo gioco, però per esempio ero piccolino e rispetto a Monkey Island, che ho giocato poco dopo, ho trovato molta più difficoltà ad approcciarmici. Vuoi l'interfaccia, vuoi, non lo so, vuoi i personaggi più simpatici, vuoi che ti danno comunque all'interno del contesto, ti danno comunque dei piccoli hint che, se stai attento, puoi capire. Anche un ragazzino come me all'epoca di 11 anni se l'è potuto giocare. Certo, ci ho messo 6 mesi, però l'ho finito. Beh, sicuramente era più accessibile l'avventura della Sierra, dove si moriva ogni 2x3, e quindi invece la filosofia di Gilbert era quello di non creare vicoli ciechi, non creare morti o... Però comunque... neanche Indiana Jones 3 ce l'ha i vicoli ciechi, se non sbaglio, quindi... Sì, ma anche per le stesse parole di Ron Gilbert, dice che in realtà non riuscirono in Indiana Jones a non creare assolutamente vicoli ciechi o morti del personaggio, ci furono, e quindi anche secondo loro fu il primo su della Crusade si muore in due o tre occasioni. Se muore, cioè, quindi se muore, esatto. Invece in Monkey Island no, praticamente, a meno che non ti impegni duramente, tu non muori mai e puoi continuare fino a quando riesci, e non ci sono vicoli ciechi, cioè tu hai sempre la possibilità di finire. No, c'è anche, anzi, c'è anche la presa per culo della Sierra, se tu ti ricordi, quando tu stai sulla rupe, su Monkey Island, cadi di sotto, ti fa la schermata tipica della Sierra, sei morto, che vuoi fare, poi alla fine ritorna su e la presa per culo, insomma, è lì. Dice, sono rimbalzato su un albero della gomma, dice. Sì, sì, sì. È lì veramente, lì tanto de cappello, perché c'era anche un po'... sta sfida, no? Sto derby, che poi in realtà magari non era neanche, no? Però noi lo vivevamo così, no? Cioè... Sì, non lo era e lo era contemporaneamente, perché sì, perché erano loro alla fine che facevano avventure e loro volevano appunto evitare questo, che la frustrazione nel gioco d'avventura. E per me probabilmente è proprio stato questo, la chiave di volta di Monkey Island, in generale il momento, perché arriva, è come una specie di evoluzione che arriva a un certo punto e nasce finalmente qualcosa che poi lascia il segno, no? Come succede in tutte le altre arti, come tutti gli altri media, cioè esiste anche nel cinema che a un certo punto arriva un capolavoro, ma non è che è il primo film di quel genere, ma riesce magari in quel momento, per tutta una serie di convergenze, a diventare qualcosa che poi viene ricordato. E Monkey Island secondo me arriva in quel momento preciso, cioè arriva in un momento evolutivo in cui si andava in quella direzione, ma non c'era ancora un'idea chiara, un leader, e questo è stata la Lucas Games ed è stato Monkey Island a creare questa avventura, dove finalmente tutti potevano finalmente giocare a un'avventura grafica, in questo senso, ma che era l'evoluzione delle avventure testuali, quindi è un'avventura, un gioco di avventura, e non essere frustrati nel giocarlo e frustrati. Con le avventure si erra, per me anche frustati, va bene. Anche frustrati. Beh sì, noi dobbiamo sempre considerare che veniamo dalla scuola Lucas, veniamo da un Maniac Mansion, dove in effetti c'erano proprio dei problemi nel gioco, cioè potevi, se non facevi determinate cose in determinati momenti, cioè, basta, cioè il gioco non lo potevi finire. E veniamo da Zack McCracken, che era un gioco, io l'ho sempre definito, poi chiaramente non è così, ma disorganizzato dal punto di vista degli oggetti, cioè tu praticamente risolvi un problema a Londra, dovevi andare in Perù e poi dovevi andare in Canada e poi andavi in Francia e poi forse, cioè era un po' troppo dislocato, no? Cioè troppo disorganizzato da quel punto di vista, no? Anche se poi il gioco prevedeva che fosse così, no? Cioè, nel senso, però e venivi poi invece dalla scuola Lucas, dove cambiavi schermata, arrivava il cinghiale e ti ammazzava e tu manco te ne eri accorto, insomma, nel senso, quelle sono le cose. E invece Monkey Island, da quel punto di vista, l'unica cosa era la difficoltà del gioco, cioè sta lì, provare, riprovare, e a volte magari ti stranevi per questo, ma quello era il gioco, era onesto, il gioco era quello, insomma, no? Poi vabbè, esatto. Quando arrivavano le soluzioni, e magari alcune cose. Con tutto questo fu un insuccesso commerciale, una cosa che sanno in pochi, quanto vedo, perché non lo sapevate neanche voi quando l'ho citato prima della trasmissione, ma fu soprattutto il 2 che a essere un fallimento dal punto di vista commerciale. Monkey Island 2 vendette circa 25.000 copie. Ma veramente? Sì. Ma in America? No, in generale. E fu un grandissimo successo in Europa. Però e quanto ha venduto poi nella storia? Perché questo poi bisogna, cioè oggi per esempio in cui, e infatti poi fu un successo, cioè fu un long sell, sono come quei film che escono che non li caga nessuno al botteghino, poi diventano storia. Sì, no, ma è così. Infatti il terzo uscì anni dopo, perché il secondo, quando uscì il secondo, vendette così poco, per le stesse parole di Ron, venne giù il capo del management e disse: niente, Monkey non vende, fate qualcos'altro, inventate qualcos'altro, questo non vende, non c'è niente da fare. E lì ruppero la promessa di non usare i franchising di Lucas, no? Cioè, nel senso, no Guerre Stellari, no Indiana Jones, pa, il gioco di Indiana Jones, cioè, che tra l'altro capolavoro anche quello. Full Throttle, Full Throttle ve lo ricordate? Sì, come no. Cioè, sì, però Full Throttle non è ricordato al pari di Monkey, no? Per dire, sì. Adesso, per dire. Perché era un gioco un po' di merda, diciamo. Se dico Full Throttle, dicono che, ecco, Full Throttle fu il primo gioco della Lucas a superare il milione di unità vendute. Pensa, è un gioco deludente, poi tutto sommato. Cioè, nel senso, esattamente. Ma questo il mondo per darvi un'idea. È sempre funzionato al contrario. Sì, è vero. Anche se per me il gioco più affascinante di tutti rimane The Dig, che penso che l'ho giocato solo io e pochi altri. Però no, io l'ho giocato. No, vabbè, era per dire. Siamo in due, dai. Comunque, Lobby Frontali ci dice che secondo, allora, alcune idee dell'ipotetico terzo Monkey Island di Ron Gilbert sono poi confluite in Tales of Monkey Island, quello della Telltale, per capirsi. In effetti, sì, sta storia l'avevo sentita, la serie episodica che in realtà è, cioè, cancella il 4 e il 5, ma fondamentalmente in teoria dovrebbe cancellare anche il 3, esatto. Insomma. E... che non è malissimo, non so se l'hai giocato. No, Tales of Monkey Island è bello, però io non riesco a giocarlo, cioè mi dispiace, sono arrivato fino al terzo episodio, poi mi interrompo perché c'è qualcosa che mi dice no, basta, cioè non... Per me, stilisticamente, visivamente, questo richiamo al cartunesco che è uscito fuori dal terzo, per me non stanno in cielo né in terra. Per me non è più. Ti dà fastidio quello. Sì, dai, sì. Però dico, la storia è carina. Dai, la storia è molto carina. Sì, sì. Ma hanno detto anche che poi diventa anche commovente a un certo punto. Insomma, cioè, è abbastanza. Anche se poi io la devo dire tutta, per me il miglior gioco delle avventure di quell'epoca lì, in ogni caso, rimane Fate of Atlantis come proprio, sì, come sì, sì, sì. Allora, a me è piaciuto molto anche The Last Crusade, però devo dire che Fate of Atlantis secondo me tocca la punta proprio anche lì, perché lì erano liberi dalla trama anche, quello sarebbe stato il filmone, raga, cioè nel senso, sì, sì. Ma poi c'ha tutto, sai, ha tutto, secondo me Fate of Atlantis sta tutto al posto giusto, dialoghi giusti, difficoltà giusta, personaggi giusti, storia giusta e disegni mostruosi, cioè i disegni di Fate of Atlantis sono mostruosi, cioè, mostruosi, cioè ribadisco sempre, quello in 7 pixel per 7 c'ha la faccia di Harrison Ford, cioè, perché è mostruoso quel gioco. Erano bravi. Allora, Roberto Domaiolo ci scrive: ci sono spunti presi da Monkey Island da Lucy Sweet Larry, che non ho mai saputo, però non ho capito, anche se non ho capito la domanda, Roberto, se me la ripeti forse riusciamo a capire. Pare che The Dig ha scatenato le rimembranze di tutti, un grande gioco The Dig, ragazzi, cioè, anche quello sottovalutato, e poi fu penso la morte della Lucas, quello, lì Green Fandango, poi poco altro, insomma, quindi niente. Allora, quindi questo codice sorgente, che altre perle ci ha regalato? Niente, cioè. No, beh, ce ne sono un sacco. Vabbè, adesso non so se vogliamo vederle tutte, ma veramente magari racconta qualcos'altro che magari ti viene in mente. Ma c'era, per esempio, hanno trovato un pezzo di grafica di un gioco mai uscito della Lucas, Laila Thomas, di un gioco che doveva chiamarsi Top Secret. Mm-hmm. Che hanno trovato lo sprite del personaggio principale dentro, e questo era un gioco che non è uscito mai, per esempio. Poi c'era una scena, un altro sprite di una cutscene che doveva esserci di un gioco, un minigioco interno di Monkey Island, che era un combattimento di spada ubriaco con insulti, insult sword fighting, drunk insult sword fighting, cioè praticamente era che sicuramente era meglio della Monkey, sì, Fight che c'era sul 4 o 5, com'era, ma una delle cose più bestemmiose della faccia dell'umanità, insomma. Senti Carlo, non c'entra niente, però Emanuele mi chiede in chat, io già so la risposta, però te le faccio rispondere a te, che sei sempre quello che ti s'addrizza la schiena quando lo senti. Si dice che The Dig nasce da un'idea originale di Spielberg, al quale ci dovevano fare un film. Noi sappiamo che non è vera sta cosa, no? Cioè, nel senso... no. No, non è vera, ma come il fatto che non... lo sapevi del discorso dei film di Monkey Island, che invece derivano proprio dalla quello che ha scritto I Pirati dei Caraibi, hai presente? Ah, okay, sì, sì. Il film I Pirati dei Caraibi, io pensavo di no all'inizio, pensavo si fosse semplicemente ispirato anche lui alle stesse ispirazioni che hanno creato Monkey Island, no? Il famoso parco di divertimenti della Disney. Non mi ricordo più come si chiama la parte, lo sapete, le due ispirazioni che hanno dato origine a Monkey Island sono due: uno è l'attrazione dei pirati della Disney, e l'altro è il romanzo Mari Stregati, che è uscito nell'87 negli Stati Uniti, da cui si è ispirato Ron Gilbert per tirar fuori la storia di Monkey Island. Io pensavo che il creatore dei Pirati dei Caraibi fosse simile perché fosse ispirato da quello. In realtà è saltato fuori che lui aveva scritto, stava scrivendo la sceneggiatura per un film di Monkey Island. Uh-huh. E poi dopo questa sceneggiatura è diventata I Pirati dei Caraibi. Allora, intanto I Pirati dei Caraibi e quanto è Monkey Island in assoluto, cioè nel senso, cioè, dei spunti incredibili, io non so. Però Emanuele ti risponde dicendo: lo supponevo, ma lo avete scritto voi su TGM sta cosa? Ed è vero, perché su TGM c'era scritta sta cosa, quindi tu dovevi frustare i tuoi, sì, colleghi, caro Carlo. No, beh, quando l'hanno scritto io già non c'ero più. Ah, ok, allora sei perdonato. Sto parlando del 2010, che io, per voglia, c'erano andato via da anni. No, che anno era quando è uscito Pirati dei Caraibi? No, io parlavo di The Dig, cioè sul fatto che... Ah, no, The Dig no, quello parlane tu, perché io non sono titolato. No, nel senso che lui ti ha domandato, è vero che viene da un'idea di Spielberg che stava nel cassetto e ci devono fare un film, che noi sappiamo che questa cosa non è vera, però in realtà... Questa cosa fu scritta su TGM, in effetti me lo ricordo anch'io, perché sto mito non è nato a caso. Non l'ho scritta io, quindi non so. L'hai scritta tu? Non lo so. Ah, no. Non l'ho scritta io, quindi sì. Non lo so. No, vabbè. Però, anzi, insomma, probabilmente già non c'ero più. Che anno era The Dig? Non mi ricordo più. Adesso mi fai 96? 96, ciao. Nel 96 io ero da tutta tre, ero in Jackson a fare Amiga Magazine. Quindi. A scrivere che The Dig era fatto da... No, io da Jackson Amiga Magazine già non scrivo più di video. 95, scusatemi. 95 uguale, io ho finito, sono andato via da TGM nel 91. Ma sì, 91. Ma dai, ma stanno scherzando, è chiaro che... vabbè, dai, comunque, no, perché sta cosa dei Pirati dei Caraibi è carina, cioè, però voglio dire, nel senso, io non l'ho mai visto il Pirati dei Caraibi, ho sempre visto i trailer. E quando vedevo i trailer io ci vedevo Monkey Island, cioè, nel senso, perché poi secondo me ho sempre pensato... Ma in particolare adesso che è tutto della Disney, ma come fai a non fare un film su Monkey Island? Cioè, vabbè, forse sì, oggi... Ma c'è pure la casa della tipa voodoo che sta in mezzo alla palude, come facevano ad essere ispirato? No, ma in realtà, perché prendono ispirazione tutte e due dalla quella lì, soprattutto della casa della tipa voodoo in mezzo alla palude, è uno dei punti dell'attrazione della Disney, del parco divertimenti, quindi si sapeva che veniva dalla stessa idea, che poi è stata ripresa un sacco di volte, perché per esempio voi siete mai stati a Gardaland? Ma mai. 30 anni fa. Mai proprio, no? Tu mai? No, mai. Così da che a Gardaland una delle attrazioni più vecchie, ma che ha più successo da sempre ed è ancora una delle più belle, è appunto quella dei pirati, del viaggio dei pirati. Vabbè, però sta cosa c'è una derivazione anche sul fatto che io quando ero ragazzino il libro che ho amato di più, e forse lo amo ancora, per sentire, è l'Isola del Tesoro, cioè nel senso, raga, cioè, è tutto derivativo poi alla fine, se vai a vedere, no? Cioè, nel senso, comunque l'ambiente marinaresco, piratesco ha sempre avuto un grande fascino, soprattutto nei più giovani, no? Sì. Comunque dilla tu quella di The Dig, perché io non me la ricordo proprio, non mi ricordo un cacchio io di... No, è che, vabbè, girava questa notizia, però tu poi una volta parlandone l'avevamo smentita sta questione del fatto che The Dig... Non ero io. Non eri tu, allora probabilmente era Didus, allora, Lucas Delirium, però non mi ricordo con chi stavamo parlando, che alla fine comunque si parlava di questa questione che The Dig in realtà fosse una sceneggiatura di Steven Spielberg schiusa in un cassetto, che si ipotizzava di farci un film e poi è stata riconvertita nell'avventura grafica. Però poi sta cosa pare che... No, pare, insomma, sembra che sia assolutamente stato smentito, ma da Spielberg stesso anche, quindi alla fine non è vera, insomma, sta storia non è vera, non ce li torniamo sopra altre mille volte, insomma. Che comunque rimane un gran gioco, probabilmente... forse vittima di, come spiegavano allora, cioè loro in quel periodo in cui ovviamente il mondo dei videogiochi già stava cambiando, andavano lì dicendo: guardate, sto gioco c'ha 27 stanze, e il produttore gli diceva: no, tagliatene almeno 6-7, e loro ovviamente dovevano tagliare perché i costi dovevano essere contenuti, e probabilmente, insomma, questo poi alla fine ha penalizzato tante avventure. E comunque Poi si parlava prima di Full Throttle, ma Full Throttle secondo me, al di là della storia, insomma, anche se c'aveva il suo fascino, poi c'erano quelle famose sequenze che dovevi menare, cioè che ragazzi era una cosa indecente, insomma. Il problema di Full Throttle sai qual è? Che quando sembra che stai entrando nel vivo del gioco finisce. Cioè, sì, noi che era abbastanza corto, sì, forse a me piace tantissimo. Ron Gilbert ha dichiarato che Full Throttle è stato il suo tentativo di fare un videogioco più commerciale possibile, infatti ha venduto tantissimo. Probabilmente era molto commerciale. Era Easy Rider, no? Cioè, un po' così, insomma, un po' futuristico, un po' fantascientifico, il personaggio era divertente perché era brutale, anzi forse sicuramente cioè, il personaggio più brutale della storia della Lucas, no? Questo che piava a cazzotti tutti, venava a tutti, insomma, alla fine. Però a me i dialoghi non piacevano in Full Throttle. I film che vendevano probabilmente erano quelli dove si menava la gente, quindi ha fatto quello. Sì, può essere. Certo, il gioco col doppiaggio in italiano terribile, diciamo, perché comunque ha cioè, un doppiaggio molto altalenante, ma in generale i giochi d'allora c'avevano sto problema. Anche se invece Sam & Max, per esempio, mi divertì molto, insomma, che c'aveva le cose dialettali, no? I tizi che parlavano con i dialetti italiani, che è un abominio, lo so, però a me faceva ridere. Ci posso venire. Mai giocato i giochi in italiano, io quindi non lo so. Vabbè, mo, tu, su, dai, che... Mo. No, vabbè... Ma Sam & Max in generale però è un ottimo gioco. Io mi sono divertito tantissimo, ma pure le due serie dei Telltale sono bellissime, anzi le tre serie dei Telltale, le ho trovate veramente divertenti. C'hanno una bella atmosfera noir che secondo me è resa molto bene, con tutto che sono tutti animali, eh? Sfizio mi piace. Lo so, però il coniglio assassino sognava la gente, mozzicava, uccideva, cioè, era terribile. Vabbè. Ci sono domande. Allora, tu intanto racconta qualcos'altro, io scorro un attimo la chat. Lo so, vedi se c'è un altro spunto che c'hai, magari una cosa che ti ha incuriosito particolarmente. C'è una cosa, comunque una cosa carina che non abbiamo detto è che il governatore Marley, Elaine, prima era un grassone, prima di diventare una donna. Sì, no, l'ha detto. Sì, no, l'abbiamo detto. Sì, no? Sì, l'abbiamo detto. Sì, l'ha detto. L'ha detto che però poi ho detto che il grassone poi l'hanno messo nel secondo come governatore di un'isola, non so se vi ricordate quello che mangiava che i dubbi là, no? Di Fat Thailand, il governatore di Fat Thailand. Esatto. Che pure si chiamava Fat questo qui, governo Fat, esatto, governo Fat. Sì. Anche se lì era con PH e qua invece pare che sia proprio Fat come chiatto. Esatto. ne abbiamo dette tante, direi che se non ci sono domande ci avviamo alla conclusione. No, sto leggendo, non mi pare che ci sono varie considerazioni adesso sui pirati e via dicendo, ma niente di... Io consiglio innanzitutto di andare a guardare sul sito della Video Game History Foundation l'articolo proprio che fa vedere proprio visivamente le cose che hanno trovato all'interno del sorgente, che sono molto molto belle anche visivamente da guardare, l'articolo è fatto molto bene. E poi se è possibile di appoggiare questa iniziativa, che ecco, forse non abbiamo detto questo l'ho accennato io all'inizio, però secondo me questo è un passo fondamentale per quanto riguarda la preservazione della storia del videogioco, cioè il poter iniziare a rendere consapevoli anche i creatori stessi e donare. Ecco, non ho detto che il codice sorgente l'hanno fatto vedere, ma non è che è disponibile, non è che lo potete andare a scaricare, prendere e utilizzare. Lo conservano alla Video Game History Foundation, verrà preservato. Adesso hanno fatto questo evento, non è detto che in futuro lo rendano disponibile o parzialmente disponibile i tool della Lucas, che però per adesso in teoria sono sotto copyright della Disney, quindi sono preservati. quindi mai intanto sono dentro a questo museo, a questa fondazione, sono a disposizione dei ricercatori, quindi come tutte le cose che fanno parte anche della storia, che non sono la storia del videogioco ma qualsiasi altra cosa, se uno vuole ricercare può chiedere informazioni, sono dati in visione, probabilmente ci saranno degli accordi particolari per i ricercatori per poter visionare il codice e i tool sorgenti della Lucas di Monkey Island. Questo è solo il primo evento che fanno, e quindi ci aspettiamo in futuro ulteriori eventi, ulteriori rilasci di importanti videogiochi che verranno appunto analizzati e preservati nella loro forma del codice sorgente degli strumenti che sono stati utilizzati. Allora, è un peccato, dici... perché pensavo Vai. Potessi richiederlo, mi rende triste questa cosa. Beh, puoi scrivergli alla Video Game History Foundation, guarda, magari te lo danno. E fanno ma che cazzo sei, no? Ho fatto un videogioco, ma che vuoi, vaffanculo. No, magari lo dici, sai. Ti fanno firmare un contrattone dopo che se lo dai in giro sei morto e probabilmente te lo danno. Ci devo provare. Allora, intanto ricordiamo che nella versione podcast che sarà disponibile dopo un'ora dalla fine di questa diretta, metteremo comunque il link all'articolo. Poi, non so, io ho capito che comunque il codice di Monkey si potesse richiedere, però insomma evidentemente no, non è così, però voi provate a scrivergli, magari qualcosa vi dicono, sicuramente saranno altri eventi, quindi metteremo il link direttamente sulle note dell'episodio. C'è una domanda che non è proprio attinentissima, però vabbè. Allora, Maogara ci chiede quale può essere, quale, cioè nel senso, la differenza tra Monkey Island e Myst. Beh, insomma, a parte che sono due avventure completamente diverse, con delle genesi diverse, nate su piattaforme diverse. Insomma, vabbè, Myst è un'avventura in prima persona. Proprio anche il concetto è diverso. Myst per me è più simile a Dragon Slayer che è un'avventura, se vuoi, cioè, o a un puzzle game, volendo. Sì, è una storia bivi, cioè non è. Per quanto Myst sia bellissimo dal punto di vista visivo, mi ricordo all'epoca era il ray tracing, era tutto renderizzato, eccetera, eccetera. Però in realtà dal punto di vista del gioco, cioè, non è che c'è quel gran gioco dentro Myst, secondo me. Poi dopo, queste sono opinioni. Myst alla fine scegli e ti guardi un film interattivo, vivi. Che sono videogiochi anche quelli, per carità. Federico Gori invece ci dice Herman Tutrut, vabbè sì, il naufrago, quello che è. Ragazzi, però se scrivete poi mi si spostano le cose in chat. continuava a ridere dopo aver detto che sarebbe dovuto tornare nel luogo di nuovo. Non ricordo se si capisce perché rideva, ho questo dubbio da un sacco di tempo. Ti devo dire la verità, io non me lo ricordo, cioè proprio, sì, mi ricordo il personaggio, ma non mi ricordo poi tutta questa situazione. Ma poi, cioè, non è che noi siamo gli espertissimi di Monkey Island. Io vi suggerisco sempre di andare su www.lucasdelirium.it dell'amico Diduz, che insomma non solo conserva le memorie sempre aggiornate, tutto quello che riguarda chiaramente LucasArts, le proprie avventure, ma anche tutto quello che ne è derivato dopo, continuando poi a seguire anche le varie società, le software house che sono uscite da Lucas e che quindi continuano a produrre avventure grafiche o altri tipi di giochi. E se gli scrivete, sicuramente lui quando trova il tempo vi risponde, e lui è veramente l'enciclopedia italiana, penso. Come lui non c'è nessuno. Avevo anche pensato di invitarlo alla puntata, però so che di solito partecipa una volta su cinque, perché c'ha da fare, c'ha sicuramente le sue ragioni. Bene, detto questo, io direi che la puntata è stata interessante, perché comunque anche prende spunti, sapete che. E vi suggerisco, insomma, poi di seguire il link che metteremo appunto nell'episodio, perché comunque vi andate a vedere anche voi, insomma, le cose che magari vi possono interessare più nel dettaglio. Certo, se potevamo mettere a parlare proprio andare a fondo nel codice o via dicendo, abbiamo raccontato le cose che sono più o meno interessanti, sì. Insomma. Anche perché non è che poi si sia visto, cioè si sono viste degli snippet, ma da quel che vedo poi non c'è quasi più nulla, cioè nel senso che ce l'hanno loro il codice, non ce l'hanno più, però a noi poveri mortali è stato dato poco ancora. Sì, anche se qui in chat qualcuno diceva è stato dato tanto, non poco, nel senso che già vedere quello che hanno fatto vedere per me è già capire tutto, come, cioè già da quel poco che tu dici poco, che per me è tanto, si capisce tutto quello che era il modo in cui lavoravano, in cui hanno creato Monkey Island e anche gli altri. Cioè, vero, però sai... È ovvio che poi avere tutto il codice davanti è più divertente, anche perché vai a guardarti proprio come sono scritti. Beh no, perché poi se fa riferimento al fatto che Doom l'ha rilasciato poi il codice sorgente del gioco, insomma, quindi alla fine mi pare anche Half-Life. Sì, ma non c'era la Disney dentro... Lo so. Che poi alla fine io non riesco bene a capire, mo capisco che ci saranno sicuramente le ragioni commerciali, di proprietà e di copyright, però diciamo che con una serie di proprietà intellettuali delle quali non te ne fai niente, perché oggettivamente non se ne fanno niente, non mi sembra che si stiano sperticando, insomma, anzi era notizia di un paio d'anni fa, un anno fa, che la Lucas Film Games ripristinata stava cercando personale, ma poi in realtà era tutto personale nell'ambito del marketing, quindi probabilmente stavano lavorando a, non so, alla redistribuzione di alcuni prodotti, io non lo so, però tutti si pensavano che sarebbe rinata, no, la software house, le riproduzioni, le riproposizioni dei vecchi brand, e invece così non è stato, insomma, quindi evidentemente Disney si tiene tutto dentro al cassetto, so cazzi miei e via dicendo, anche se continua di, insomma, è sempre un po' ignoto il modo in cui. Bene, allora Umberto, una considerazione finale. Allora, la considerazione finale è che sicuramente è un grande momento, sicuramente abbiamo scoperto cose che potevamo solamente immaginare, e sicuramente però vedere Monkey Island totalmente nudo è uno dei sogni della mia vita a questo punto. Beh, che poi io tra l'altro mi faccio anche una domanda, perché lui dice giustamente, Maugara dice, vabbè, ma sono passati 30 anni, potevano anche liberalizzare il codice. In realtà, cioè, voglio dire, penso che qualcuno, secondo me, se l'è smembrato il codice di Monkey Island da qualche parte. Sicuramente l'ha fatto non dovendolo fare, però insomma, cioè, non credo che sia improponibile. Per sé, perché in giro non ci sta. No, vabbè, però insomma, non credo che sia improponibile, no, voglio dire, decodificare un Monkey Island originale, no? No, ma quello l'hanno fatto perché lo Scum Movie lo interpreta, ma non è il codice originale, è una decompilazione di quello che è stato compilato. Certo. Non ci sono dentro i commenti o le variazioni che poi non sono entrate nella. Tutte le cose che hanno scoperto adesso analizzando del codice originale, non potevi scoprirle se non avevi il codice sorgente originale, perché dentro il compilato non ci sono i pezzi tagliati, gli sprite inutili o cose di questo genere, capito? Quindi io però penso che se tu sei uno storico, quindi anche un accademico, e chiedi di accedere comunque a un, dovrebbero rilasciarti a un reperto, sì, penso che magari sulla garanzia di non diffusione, cioè nel senso, perché certo. Sì, come ho detto prima, diciamo che, ecco, c'è da così, raga, è appena partito, e stiamo parlando di una cosa che è successa pochi giorni fa. È nato il 30 ottobre ed è passato un mese praticamente, quindi cioè, è una cosa. Dati il tempo, sai quante mail hanno ricevuto già questi? Oh, prego. Oh, gentissimo. Carlo, se lo ricevi fammici da un occhio, però. No, non può. Lui, anzi, ti dice adesso. Ti dice, ti dice, no, non lo farà assolutamente mai. Dì così che stai in diretta, poi dopo fai come te va. Vabbè, Carlo, un commento finale. Beh, io in realtà l'ho fatto prima il commento finale. Vabbè, mo so perso. History Foundation, però secondo commento finale è. Posso dire che il fatto che Monkey Island, quando prima vi ho chiesto come mai secondo voi Monkey Island ha avuto questo, è così ricordato, questo grande successo, eccetera eccetera, denota anche che in questo momento siamo in un momento, diciamo, fondamentale per quella che è la preservazione della storia del videogioco. Cioè, in questi anni qui si sta definendo questo, adesso, in questo momento, quindi è importante, per quanto possibile, appoggiare tutte le iniziative in questo senso, per chi ha un minimo di passione e di interesse in questa cosa, tra cui anche noi come Archeologia Informatica e l'associazione Retro Campus, già che ci siamo facciamo anche un po' di pubblicità, quindi appoggiatevi, andate sul canale YouTube, iscrivetevi, se volete fate un giro sul sito Retro Campus, insomma. Adesso il canale YouTube lo bruciamo, quello del Retro Campus, però non di Retro Campus, di Archeologia Informatica, però, perché tra l'altro adesso torniamo, scusate, c'è stato qualche mese di pausa. Il canale YouTube di Retro Campus non esiste, no, quello di Archeologia Informatica. No, perché su Archeologia Informatica siamo arrivati a immonetizzazione e ci siamo fermati, ma è colpa mia, ragazzi, mi assumo totalmente la responsabilità. Adesso i video che devono uscire usciranno prestissimo. Detto questo, io ringrazio tutti quanti, dico a Umberto intanto di ricordiamo sempre i Beceri Video Ludici, il podcast e il canale YouTube, andate, iscrivetevi, attivate la campanella e via dicendo. Umberto, ricorda il gioco che sta per uscire, metti il link di Steam magari sulla chat di Spreaker, così almeno la gente lo va a mettere in wishlist e appena esce ve lo comprate, perché se non ve lo comprate non mi fate esprimere, insomma, non le fate spostare, ok. c'ha ragione Simone, comunque. No, a parte gli scherzi, siamo oramai da quasi 3 anni al lavoro sul seguito del primo titolo uscito nel 2017. È un'avventura che nel primo titolo nasce ispirata a Lovecraft e alle avventure Lucas, il primo titolo. Il secondo è leggermente più lovecraftiano, però rimane sempre un po' di quel sottile sarcasmo che tanto mi piace della Lucas. Comunque, oh, incredibile, ho sbagliato link, no? devo cambiare voglio vedere che cosa c'è. Ho messo un coso che si chiama The Mountain. Questo te sta a copiare, fame. Deve anche uscire. No, è sto cacchio di titolo, però io veramente avevo intenzione di ispirarlo a quel racconto di Lovecraft già mentre facevo il primo. Già mi ero immaginato tutto quello che sarebbe successo in questo qui. Quindi lo dovevo chiamare per forza così, se no non si capiva. Adesso ho messo il link giusto. Comunque fatevi un giro, è in uscita a gennaio 2021 e per i Baker a dicembre, l'11 dicembre, quindi fra 10 giorni. Mamma mia, vabbè, c'è l'italiano, perché sennò non lo compro, eh. Come c'è l'italiano, è scritto in italiano il gioco e poi grande, tradotto grande, viceversa. Grande Umberto, io e Umberto se capiamo benissimo, va bene, sì. Ragazzi, archeologia videoludica, archeologia informatica, questa puntata finisce qui, torneremo presto con tantissime puntate, però ci abbiamo in mente delle cose che dall'altro anno, poi sapete che il Covid ci ha un po' incasinato tutti su tutto, quindi è inutile starlo a ripetere e via dicendo, quindi ringrazio Carlo, ci vediamo presto per una nuova avventura, insomma ragazzi ci avevamo da fare una puntata di archeologia informatica proprio con Tomaiuolo tra l'altro, e quindi adesso riprendiamo l'organizzazione, esatto. Abbiate pazienza, facciamo tutto, voi aspettatemi un secondo qui che faccio chiudere la sigla e poi ritorno da voi, così ci salutiamo, ok? Buonanotte a tutti, ciao e grazie di aver partecipato in tantissima alla chat. Ragazzi, mi avete fatto veramente tanto piacere. È l'ictus questo. Ciao! Buonanotte! Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'Avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.